tormento dei filosofi di ogni tempo e di ogni paese è stato il problema della sensazione. Trovare un modo per delimitare con precisione cosa spetti agli organi sensori, cosa spetti all'intelletto, non è facile. Funt, cui si deve buona parte di responsabilità nei natali della psicologia sperimentale dell'Ottocento, Funt aveva addirittura ipotizzato l'esistenza di una sensazione negativa prodotta da stimoli così minuscoli da apparire sicuramente al di sotto della soglia di una sensazione positiva. Non è mai riuscito a darne una prova convincente e conseguentemente la psicologia del Novecento ha preferito abbandonare il concetto e lasciarlo, diciamo, cadere nel dimenticatoio dei granchi storici. Ceccato, per il quale lo zampino del mentale è praticamente ovunque, propose di considerare due ordini di risultati del nostro operare, quello dei presenziati e quello delle categorie. I primi, i presenziati, sarebbero il risultato di una semplice presa attenzionale, no? Come quando ci accorgiamo del freddo, questo caldo, questo è duro, questo è molle, mentre le seconde, le categorie, sarebbero il risultato di un'attenzione modellante, come quando diciamo che si tratta di un freddo da frigorifero, oppure di un caldo afoso, di una superficie dura, di una sostanza molle, che poi lui stesso dico Ceccato abbia dovuto ammettere che i presenziati sono categorie un po' allo stato brado, o che un briciolo di categorialità entra in tutti i nostri stati di coscienza. Qui al momento adesso poco importa. Anche Hegel aveva detto qualcosa del genere, ma non è stato sufficiente, come vedremo, perché di questo sapere si approfitti nell'amministrare la giustizia. Da un punto di vista strettamente epistemologico, la sentenza più importante della settimana emessa dalla Cassazione è stata quella relativa al processo a carico dell'amministratore straordinario della USL 15 di Bassopiave. Dopo una prima condanna a un anno e mezzo di reclusione, 12 mesi di interdizione dei pubblici uffici, risarcimento danni più morali che materiali, costui era stato assolto in corte d'appello. Il procuratore generale si era opposto e nei giorni scorsi l'assoluzione è stata confermata, anche se non con la formula piena che vorrebbe il fatto stesso mai commesso. Il fatto, dunque, è stato commesso, ma è un fatto che già nel raccontarlo impegna a scelte ideologiche. Se dico come fa la Repubblica del 25 gennaio scorso, se dico che l'amministratore straordinario della USL 15 di Bassopiave è finito sotto processo perché aveva palpeggiato il sedere a un'impiegata, già contesto il dispositivo assolutorio della Cassazione. Se invece, come fa peraltro il medesimo giornale autocontraddicendosi nei titoli, parlassi di pacca sul sedere, mi troverei più allineato con la sentenza, che infatti sostiene l'innocenza dell'imputato perché il contatto tra la mano e il sedere sarebbe stato, parole loro, isolato e repentino. Ho già rammentato anni or sono quanto capitato a Bondeno nel 1978. Nella pubblica via avviene un contatto tra la mano di un giovane perito meccanico e il sedere della sua fidanzata. Il contatto è giustamente percepito da un vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri come non attinente alla qualifica di perito meccanico e il giovane viene prontamente arrestato. Si fa 2 giorni di cella, viene scarcerato e al successivo processo viene assolto. Assolto perché venne accolta la tesi difensiva. Non di palpeggiamento si era trattato, bensì di affettuosi buffetti. Il punto cruciale è qui. In 23 anni, nel passaggio dai buffetti al contatto isolato e repentino, il categoriale è andato scemando, fino quasi al puro presenziato. O, detto in termini più tradizionalmente filosofici, gran parte del razionale ha lasciato il posto all'empirico. Ogni reato, come ogni peccato, prende vita e persiste come tale soltanto nel suo contenuto categoriale. Nel concetto di palpeggiamento è implicita la reiterazione e la complessificazione della dinamica manuale e dunque è implicita una durata non esente da quelle forme trascendentalmente ideali che Kant individuò già nella prima parte della Critica della ragion pura e che analizzò più approfonditamente nella Critica del giudizio. Nel 1978 l'argomentazione assolutoria si basa sul passaggio da categoria a categoria, non palpeggiamento ma buffetti, al plurale, per sanare la durata dell'azione e al contempo confermare l'assenso della parte lesa che lesa peraltro non si ritiene. Nel 2001, quando la parte lesa è parte lesa nel senso che la vittima è dissenziente, l'argomentazione assolutoria si basa sulla distruzione della categorialità insita nell'azione e dunque si ratifica ciò che ne rimane, ovvero quel presunto dato sensoriale puro fino al punto da non costituire più reato. L'isolamento del contatto dal flusso esperienziale e la sua repentinità ne garantiscono l'innocenza. Né l'operare ha fatto in tempo a raggiungere le costruzioni più complesse del mentale, né tantomeno l'operare ha fatto in tempo ad innescare quel circuito psicofisico che solo in quanto tale può costituire oggetto di dibattito giurisprudenziale. Come dire che c'è stato tempo appena sufficiente per costituirsi un duro o un molle, non applicato tuttavia, ma non per costruirsi glutei duri o molli, né tantomeno per apprezzare o non apprezzare con tutta l'anima e con tutto il corpo il risultato del proprio operare. È vero che le due argomentazioni sono state escogitate per mandare assolti due rei ben diversi in ragione della notevole diversità delle loro vittime, ma è anche vero che la seconda argomentazione, quella dei nostri giorni, quella basata sull'isolatezza e sulla repentinità del contatto, questa seconda argomentazione riflette un clima ideologico mutato. C'è una disponibilità al microscopico e all'indeterministico che non poteva esserci nella prima. La testimonianza di un vicebrigadiere dei carabinieri di Bondeno nel 1978 poteva essere rovesciata come un guanto da un semplice e banale cambio di categorizzazione, così come la zuppa diviene pan bagnato, no? Il palpeggiamento diventa buffetti. Ma la denuncia dell'ennesima molestia sessuale sui luoghi di lavoro, con tutta la storia di violenza quotidiana che si porta dietro, non poteva essere messa a tacere con uno stratagemma in fin dei conti ingenuo e ancora idoneo, diciamo, ai nipotini del carabiniere De Sica in Pane, Amore e Fantasia, 1953. Roba passata. No. Nel 2001 i magistrati si sono già digeriti ogni forma di contestazione antiautoritaria, femminismo compreso, e dunque vanno sul sottile, sul sottilissimo. Quando devono assolvere, radicalizzano l'analisi fino a che del fatto non rimane più alcunché, o il minimo impercettibile e ingiudicabile, il corpuscolare, come se il reo, anziché su un sedere, avesse posato la mano su di una sfera incandescente. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing